Vengo da un'esperienza positiva a sud di Roma, nord di Caserta, l'Officina Teatro di San Leucio. Ne parliamo con Maria Macri, che è una delle anime che compongono questa esperienza. Maria, benvenuta su queste frequenze a Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Allora, un'esperienza che va per i 10 anni, se non sbaglio, giusto? Sì. È iniziata 9 anni fa, un percorso in crescita laddove abbiamo iniziato con tante difficoltà nel far comprendere quello che è il teatro contemporaneo di oggi, nel senso che Caserta è molto legata ad una tradizione partenopea con Edoardo, quindi abbiamo un po' lottato, faticato, però adesso siamo contenti del percorso che stiamo facendo. Senti, è diventata anche un punto di riferimento importante soprattutto per i giovani, questo mi sembra il dato più positivo, per quanto riguarda la zona, con dei laboratori. Sì, praticamente siamo riusciti nel corso degli anni ad avvicinare molti giovani che frequentano i nostri corsi di recitazione. Ne abbiamo all'incirca una 60ina di allievi nella fascia dai 12 ai 18 anni, però diventa luogo di aggregazione perché molti passano proprio le loro serate, le loro giornate qui semplicemente per evitare di ritrovarsi fuori un bar, cioè diventa proprio un punto di ritrovo. E la cosa positiva è che riescono a parlare di arte, a confrontarsi su quello che hanno visto magari in giro, sul napoletano, su testi che hanno letto, quindi si attiva un dibattito culturale praticamente quasi ogni giorno. E poi è il bello anche che i genitori ci affidano un po' questi ragazzi, sono sicuri che stando da noi insomma riescano a essere tra virgolette coccolati, curati, e insomma è uno scambio che a noi piace tantissimo perché pensiamo che in questo modo l'arte possa continuare a diffondersi. Sì. Nella nostra terra, nel nostro territorio. Ecco, dicevi scambio, giustamente, perché è un rapporto anche umano oltre che artistico. Sì. Non è strettamente legato ai laboratori, ma vi occupate insomma anche del tempo libero di questi ragazzi. Assolutamente sì. Ci occupiamo di loro in tutto. Molti ragazzi arrivano da noi a 12 anni e fanno un percorso anche all'interno dello staff, nel senso che iniziano loro a vivere il teatro, a portare avanti la struttura, a viverla proprio come se fosse casa loro. E questo non è solo in funzione appunto di uno scambio culturale, ma proprio perché nascono delle amicizie molto forti tra di noi e sì. Quindi c'è questo scambio umano in primis. Sì. Oh, Maria, un altro dato positivo molto bello è che dopo gli spettacoli c'è un incontro con gli artisti, per cui poi c'è un confronto anche con chi ha assistito allo spettacolo subito. Sì. Dopo lo spettacolo, e questo mi sembra per me è del tutto una novità, insomma, abituato alla metropoli, a Roma, e dove il rapporto è piuttosto di fruizione, uno vede lo spettacolo e va via, invece qui c'è un altro dato umano importante. Abbiamo ritenuto che ci volesse un valore aggiunto, una completezza, nel senso che gli spettatori quando uscivano, ti parlo di 3 anni fa, uscivano dallo spettacolo, si soffermavano spesso all'esterno per fare a noi delle domande, per chiedere a noi delle curiosità che avevano in merito alla formazione degli attori, alla nascita dello spettacolo. E quindi ci siamo detti perché dobbiamo essere noi, soltanto noi, a vivere questa fase di relazione? Perché queste domande non possono essere condivise in un dibattito molto informale, anche con gli attori. L'abbiamo sperimentato e ci siamo resi conto che è un momento di scambio bellissimo, laddove gli attori iniziano a essere visti, appunto, non vengono idolatrati, ecco, mettiamola così. Si vedono due persone che credono nel progetto che hanno portato avanti, che ne dibattono. La cosa positiva è che poi nascono proprio dei dibattiti anche interni, non solo tra gli attori, ma tra gli stessi membri del pubblico, con cui magari si è stati seduti a fianco e non c'è stata la possibilità di scambiare una parola. Invece in quel momento si possono anche conoscere, vedere le situazioni da altri punti di vista, da altre prospettive, e questo anche in funzione di una crescita. Quindi una volta sperimentato 3 anni fa, lo abbiamo considerato un appuntamento fisso, per, lo richiedono le compagnie, lo richiede il pubblico. Sì. Alle volte capita che la compagnia, finito lo spettacolo, debba partire immediatamente per il ritorno a casa. Non abbiamo il tempo di fare il dibattito, il pubblico ne risente perché ormai è abituato bene. Sì, vive quel momento come fondamentale nel posto spettacolo. Senti Maria, tutto questo al di fuori dei finanziamenti pubblici, ecco, come fate a mandare avanti le attività? Sì, fuori da finanziamenti ministeriali piuttosto che regionali o comunali, perché i laboratori riescono a funzionare in modo tale che le spese vive, tra virgolette, del teatro vengano coperte. E siamo fortunati nel senso che il nostro pubblico, l'affluenza di pubblico, riesce a coprire invece quello che è il cachet delle compagnie. Di conseguenza andiamo a fare un'operazione di autofinanziamento di tutto. Certo, alle volte è tosta, alle volte il bilancio segna rosso, però siamo dell'idea che, credendoci, ce la possiamo fare. E quindi spingiamo su questo. Sì. Infatti, insomma, siamo convinti che, non avendo mai avuto dei fondi, averli sarebbe anche difficile nella gestione, ecco. Inizieremo a perderci. Senti Maria, voi portate avanti anche un festival, sì, se non sbaglio a settembre, ecco, è una, sì, delle vostre creature questa? Una delle nostre creature che nasce 4 anni fa, un po' per scommessa, nel senso che eravamo in prova con una nostra produzione, ma avevamo la necessità di far debuttare questa produzione non nel corso della stagione, o meglio, non volevamo aspettare tanti mesi prima di poterla vedere alla luce. Era pronta, quindi iniziamo a ragionare sull'ipotesi di una rassegna estiva. Dall'ipotesi di rassegna estiva iniziamo a guardarci in faccia, capendo che effettivamente nella nostra provincia mancava un festival che si occupasse di teatro e arti in genere. C'era stato negli anni passati, però poi era andato a morire, quindi ci siamo detti: perché non provarci? La prima edizione, insomma, ha portato dei buoni riscontri in termini di attività, di pubblico, e quindi di anno in anno ci diciamo: è una sfida che possiamo e vogliamo portare avanti. Quest'anno, alla 4ª edizione, in effetti possiamo dire che il festival è cresciuto enormemente. Siamo riusciti ad avere comunque degli spettacoli più complessi, più articolati, degli spettacoli che non avevano mai avuto sede nel sud, e quindi lavoriamo per portarlo a crescere sempre di più. Senti, tutto questo collaborate anche con strutture culturali della zona? Sì, collaboriamo con diversi enti, diverse strutture. Indubbiamente mi fa piacere ricordare Legambiente, il Comitato Città Viva, perché sono sicuramente delle attività con cui leghiamo in particolar modo per scopo sociale. Indubbiamente ci sono delle strutture commerciali più piccole con cui ci fa piacere collaborare sempre per la finalità, quindi ti parlo di librerie indirizzate ai bambini, e poi collaboriamo con una cooperativa che si occupa di integrazione nel sociale di ex pazienti internati, appunto per il reinserimento di tali pazienti all'interno di una società, ecco. Queste sono le collaborazioni che portiamo avanti con amore, diciamo, da diversi anni. Maria, per tutte le vostre attività e per conoscervi meglio, ci puoi dare i vostri riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente, abbiamo un sito internet, appunto www.officinateatro.com. È possibile trovarci su Facebook, sulla pagina di Officina Teatro, piuttosto che su Twitter, per vedere magari quello che è stato fatto, anche il nostro canale YouTube, sempre Officina Teatro. Speriamo di risentirci presto. Assolutamente, buona giornata a voi. Un abbraccio e buone attività. Grazie mille. Ciao Maria. Buon proseguimento a voi. Ciao, ciao.